Questa mappa invece rappresenta questi stessi territori dopo la prima guerra mondiale. Non mi dilungo sulla prima guerra mondiale, l'Austro-Ungheria scompare, l'Italia è tra le potenze vincitrici e allarga il suo territorio a includere tutta questa parte d'Europa. A partire dal 22 l'Italia è governata da un regime fascista e il regime fascista procede con una politica di assimilazione forzata della popolazione slava presente in questo territorio, che in qualche modo era già uno degli obiettivi del nazionalismo italiano, in realtà. Ma che viene portata avanti con estrema caparbietà dal regime fascista, proprio anche attraverso il suo sistema capillare totalitario, e quindi mediante gli strumenti che lo Stato totalitario mette a disposizione, che non sono solo puramente repressivi, cioè operazioni di polizia, che pure esistono, e ci sono anche casi di condanne a morte da parte del Tribunale Speciale per la difesa dello Stato contro slavi che si rifiutano di accettare, diciamo, questo sistema, ma funziona attraverso una serie di altri fattori dello Stato totalitario, alla scuola ad esempio, ma anche l'imposizione di una serie di cambiamenti simbolici ma significativi. Ad esempio il cambiamento dei toponimi, cioè dei nomi delle località, l'imposizione del cambiamento dei nomi delle persone, e l'obbligo di parlare esclusivamente italiano. Sono una serie di politiche che vengono portate avanti dal fascismo in questi territori che sono estremamente repressive nei confronti della popolazione slava, appunto con lo scopo di italianizzare forzatamente la popolazione, che danno vita a un sistema di leggi che sostanzialmente rappresenta una sorta di legge razziale ante litteram. Questo non sono io a dirlo, ma gli studiosi che hanno studiato specificatamente questo periodo parlano proprio di vere e proprie leggi razziali che vengono emanate dagli italiani in questi territori negli anni 20 già del Novecento, quindi una quindicina di anni prima delle leggi razziali del 38, e che però appunto hanno lo scopo di colpire principalmente la popolazione slava, le minoranze slave che in molte parti della regione sono maggioranza in realtà.